A tutta prima, avviandosi verso casa, pensò che se ne sarebbe andato alla chetichella senza nulla dirle. Tutt'al più, le avrebbe spiegato ogni cosa in una lettera che lei avrebbe letto quando lui fosse già partito. Si era ormai quasi fissato in questa idea quando entrò in casa. Di solito Tamà era lì in attesa di lui nel giardino o sulla porta, ma quella sera tardava. Egli era già in casa e si toglieva le scarpe quando la vide comparire di corsa dalla cucina, ravviandosi i capelli mentre correva. «Sono così in ritardo!» esclamò. «Ma vedi, stavo facendo qualche cosa che so che ti piace, mi ci è voluto molto tempo!» Vedendola correre gli incontro, coi grandi occhi franchi e il viso roseo, egli mutò a proposito. No, non se ne sarebbe mai andato senza parlarle. Un simile progetto era assolutamente inattuabile. E tuttavia, se aspettava, il coraggio gli sarebbe mancato. Nel calore del momento la afferrò per le spalle e cominciò a parlare. «Tamà, devo andare in Cina, mi aspettano!» Disse questo con molta calma, per non prenderla del tutto alla sprovvista, ma sentì che il corpo di lei gli si irrigidiva fra le braccia e la vide scolorirsi in viso. Tamà non disse lascia che venga anch'io, no, ella sapeva ora che egli intendeva andarsene da solo. Proseguì, per tutti questi giorni sono stata in preda all'angoscia, senza sapere che cosa fare. Indovinavo i tuoi pensieri, disse Tamà. La sua voce era così fioca che quasi egli non l'udì. «Ma non mi dicesti mai niente», ribatté lui. «Credevo che tu non sapessi». «Oh, non volevo. Avevo tanta paura che tu potessi considerare tuo dovere lasciarci», balbettò lei. Le labbra le tremavano, egli non resse alla vista. Si strinse al petto il caro viso e appoggiò la guancia ai suoi capelli. «Non sapevo quello che dovessi fare», disse, «e non l'ho saputo fino a stasera». Un vecchio con la cassettina delle ceneri mi ha fatto vedere come sia dolce e giusto morire per la patria. Usava parole antiche. Tamà non le aveva mai udite, ma Miss Maitland, la professoressa di inglese di una volta, gliele aveva fatte imparare a memoria. Tamà assentì col capo e si asciugò gli occhi con una delle sue grandi maniche. «Si capisce che devi andare», disse con semplicità, «se sei persuaso che il tuo paese ha bisogno di te». Inghiottì la saliva un paio di volte. E di nuovo si asciugò gli occhi. «Sono giapponese, lo capisco», disse. Sentì il cuore di lei battere contro il suo e smentire col suo tonfo precipitoso la pacatezza di quelle parole. «Tu lo sai, per te sono sempre lo stesso», mormorò lui. Ella si scostò. Lo so», disse. «Quanto accade non ha nulla a che fare con noi. Dobbiamo studiare il nostro progetto». Tamà era una donna pratica. Aiwan già la vedeva all'opera e in quel momento Mia comparve all'uscio un po' inquieta. «Signora, signora, che cosa faccio, bolle?» «Ah!» esclamò Tamà, poi rivolta ad Aiwan. «Beh, ne parleremo più tardi, dopotutto non c'è sugo nello sciupare un bel pesce». E corse in cucina. Parlarono sino a tardi nella notte. Avevano scostate le tramezze, avevano davanti a sé il giardino e oltre il mare. Per tutta la durata del loro colloquio, Tamà guardò verso il mare. Non c'era luna, e anche quando gli occhi si erano assuefatti all'oscurità, vedevano appena i contorni del giardino, nonostante tutte le luci interne fossero state spente per via delle falene. Egli non vedeva il viso di Tamà, sentiva soltanto che era rivolto dall'altra parte. Sedevano su delle stuoie ed egli le teneva una mano. Fra le sue la sentiva calda e forte. Ella non pianse né protestò, ma egli lo vedeva bene ora. Era andata rimuginando grandi pensieri da chissà quanti mesi ormai, in attesa di quel che doveva accadere. Quando egli le domandò «Che cosa credi che ti converrà meglio di fare coi bambini?», lei fu prontissima a rispondere. «Naturalmente possiamo sempre tornarcene da mio padre. Gli piacciono tanto i bambini». Egli non ci aveva pensato. Si era sempre immaginato che sarebbero rimasti là fino a quando... Già, fino a quando. Chi mai poteva presagire la fine di quella guerra? È certo la miglior cosa da fare, convenne quasi suo malgrado. Pensare che Giro e Gangiro sarebbero cresciuti in casa Muraki, ah, si sarebbero certo dimenticati della casetta che egli aveva costruita per loro, della casa dove avevano vissuto col loro padre cinese. «Li aiuterai a ricordarmi?» le domandò. Sentì che la stretta della mano di lei si faceva più forte. Dovrò essere moglie, non ligia ai miei doveri solo perché la disdetta ci ha colpiti? Rispose. Poi, in un impeto di energia, che motivi di astio ho mai contro di te? Tu non ci abbandoni, dirò ai nostri figli, onorate vostro padre che si batte per il suo paese. Di, Aiwan, costi pure quello che costi, dobbiamo provvederci di un grande ritratto tuo. Voglio un ritratto di grandezza naturale prima che tu parta. Lo metterò in un luogo dove i bambini possano vederlo tutti i giorni e lo orneremo con dei fiori. La commozione la vinse, si fermò e tossì. Lo faremo fare domani, promise lui. Gli parve di sentirla che tremava, ma dopo un poco ella gli disse con voce calmissima: Ti occorrerà una nuova valigia o quella che abbiamo è buona abbastanza. Ah, porterò pochissima roba con me, rispose lui. Fra pochi giorni indosserò la divisa. Ora davvero tremava, ma la conosceva abbastanza per sapere che gli sarebbe stata grata se soprattutto si fosse astenuto dal dir cosa che potesse farle perdere il controllo sui suoi sentimenti. Perciò continuò a carezzarle dolcemente la mano. Immagino mi convenga prendere il prossimo piroscafo, disse con calma. Parte fra 4 giorni e nel frattempo avremo largo agio di pensare a tutto. Devo informarne tuo padre. Lascia che ci pensi io. Disse Tamà con un filo di voce. Ma per ora non diciamo niente a nessuno. Voglio che questi 4 giorni passino come se tu non dovessi andartene, e quando sarai partito andrò da mio padre e gli dirò ogni cosa. Egli rifletté un momento. Ma il mio silenzio potrebbe parere segno di scarsa gratitudine verso i tuoi, Tamà, disse. No, ripeté lei, no, lascia fare a me, fai a modo mio padre capirà. L'unica cosa che egli capirà sarà sempre di te. Ciò che ti accingi a fare. È molto buono, cominciò Aiwan, ma Tamà lo interruppe. Qualunque giapponese capirebbe, affermò con orgoglio. Non volle fare la sua valigia se non quando mancava solo un'ora alla partenza del piroscafo. Quei pochi giorni che erano sembrati così lenti a passare adesso che erano trascorsi parevano nulla. Aiwan li aveva lasciati passare proprio come aveva desiderato Tamà, non contrastandola in nulla. Tutti i giorni, meno l'ultimo, aveva atteso al suo lavoro senza confidarsi con nessuno, mettendo tutte le cose in ordine per colui che avrebbe dovuto subentrare al suo posto. Non aveva mai avuto particolare predilezione per quel lavoro di mercante, poco gli importava di abbandonarlo. Eppure gli aveva assicurato l'agiatezza. Se avesse voluto, avrebbe potuto rimanersene al sicuro dov'era e per sempre, ma non era capace di tanto. L'ultimo giorno, sapendo che era desiderio di Tamà, andò con lei a pregare in un tempio shintoista sulla collina. C'era già andato con lei altre volte, ma non aveva mai voluto entrarci. Senza fede, diceva sempre, non posso pregare, io non ho fede. Così Tamà era sempre entrata sola coi bambini. Un poco lo turbava che ella portasse dentro i bambini, ma poi ci si era adattato, ricordando che quando era piccolo anche lui era spesso entrato nei templi con sua madre. Ma diventando grande, aveva seguito l'esempio di suo padre che non credeva in alcun dio. Ciò nonostante, per far piacere a Tamà, in quell'ultimo giorno entrò nel tempio e sostò davanti all'altare con lei e i bambini in piedi mentre essi pregavano. Persino il piccolo Ganjiro sapeva pregare e Aiwan se ne stupì. I suoi 2 figli sarebbero cresciuti adorando gli dei della madre. Ma come ora poteva impedirlo? Facciano pure, pensò improvvisamente, se pregare li rende altrettanto buoni quanto lei. In quanto a lui non sentiva nulla, nemmeno allora, salvo la carezza della manina di Giro nella sua e il braccio di Gangiro che gli cingeva una gamba. Così finì l'ultima giornata. Arrivò la mattina seguente, arrivò l'ultima ora. Egli cominciò a riporre pochi panni nella valigia, un abito di scorta, gli indumenti da notte e alcuni libri. E in quel punto arrivò Tamà con qualche cosa tra le braccia, qualche cosa di azzurro, di seta. Egli non sapeva di che cosa si trattasse. Ella scosse l'oggetto e allora gli vide che si trattava di una sua vecchia veste cinese. L'indossavi la prima volta che ti vidi, gli disse sorridendo Tamà, con infinita tristezza. Non la porto da anni, rispose Aiwan, non reggendo quasi agli occhi di Tamà. Potrai averne di nuovo bisogno ora. La piegò con cura, una manica contro l'altra, e la ripose nella valigia. Tamà lo sentiva. Gli era vicina come lo era stata durante quei 4 fatidici giorni, così vicina da essere tutt'uno con lui. Egli aveva intuito i suoi pensieri e bisogni, il suo pianto rattenuto, la stoica volontà di non dargli sfogo se non quando lui fosse partito. Prima della sua partenza, ella avrebbe sempre sorriso. Dopo, la secondò, ben sapendo che lei si sarebbe vergognata qualora non fosse riuscita a controllarsi e ne avrebbe poi sempre sofferto come di una debolezza che non poteva permettersi per amore di lui. Vissero insieme tutte quelle ore in strettissima comunione, senza, tuttavia, andare più in là di una lieve stretta di mano, e così fino all'ultimo. Nel porto i fumaioli della nave cominciavano a fumare, le caldaie erano sotto pressione, la nave sarebbe partita a mezzogiorno. Ai Wan disse con calma: «Ora, Tamà, devo andare». 3 giorni innanzi erano rimasti d'accordo che egli sarebbe partito solo, senza dir nulla ai bambini, soltanto lei sapeva. Tenendosi per mano, uscirono nel giardino dove i ragazzi solevano giocare. Giocavano anche ora, intenti a costruire una piccola diga di pietruzze attraverso il ruscelletto. Non alzarono nemmeno gli occhi. Egli ne udì le voci. Giro, come sempre, dava ordini al minore e Gangiro rispondeva con domande. Per un istante, Aiwan si sentì mancare. Era più forte di lui. «Ti farò venire in Cina coi bambini», disse. «Non appena potrò, verrete tutti». Ma Tamà scosse il capo. «Quando mai avrai bisogno di noi?» domandò. Le sue parole, la sua voce, i tranquilli occhi rassegnati lo richiamarono alla realtà, strappandolo da quell'attimo per ripiombarlo nella più vasta vicenda nella quale le loro vite individuali erano ora perdute. «Devo andare», disse in fretta. La prese tra le braccia, premette la guancia contro quella di lei. La guardò a lungo e nel suo viso vide frapporsi fra di loro l'eternità. Mise piede sul ponte della nave proprio mentre cominciavano ad alzare lo scalandrone d'imbarco. «Un minuto ancora e vi avremmo lasciato lì in asso, mio caro», disse rozzamente un marinaio americano. Aiwan non rispose. Andò a poppa della nave, dove era la seconda classe, e trovò il numero della sua cabina. La cabina era vuota, ma il bagaglio di un compagno di viaggio era già lì sulla cuccetta inferiore. Egli buttò la sua valigia sulla cuccetta in alto e uscì. Lungo il corridoio, oltre gli usci aperti, sentiva ovunque i non più familiari suoni della sua lingua. Salì sul ponte, rimase a guardare i colli. Ora la nave si staccava risolutamente dal molo. Ancora pochi minuti e avrebbero varcato l'imboccatura del porto. Aiwan cercò con l'occhio il fianco del colle più prossimo al mare. Eccolo là. Là c'era la sua casa. Il quadratino di verde più morbido del verde circostante era il suo giardino. Vedeva bene ora. Una macchiolina di colore. Tamà. Non ne vedeva il volto, ma sentiva che i cari occhi laggiù si sforzavano di veder lui. Un puntino color arancione si mosse sul verde per portarsi accanto a lei. Era suo figlio. Allora improvvisamente fu tentato di buttarsi in mare per tornare a tutti i costi da loro. Quella casetta, ecco, in quel momento gli pareva che quella casa laggiù, dove era Tamà, fosse la sua vera, la sua unica casa. Perché l'aveva lasciata? Chi gli assicurava che anche ora, come già un'altra volta in passato, egli non inseguiva un miraggio? Che cos'era il suo paese? Tamà ora, certo, piangeva. Anche a lui le lacrime facevano nodo alla gola. «Hello?» disse una voce americana. Aiwan sobbalzò un poco e si volse. A un palmo dal suo viso era la faccia quadrata e bonaria per quanto brutta di un viaggiatore. Non era americano, bensì cinese, e lo si vedeva bene per quanto indossasse un vestito di taglio americano, azzurro cupo rigato di bianco. Gli era troppo largo e la faccia gli usciva a rubizza da un colletto bianco-azzurrino di celluloide, anch'esso troppo largo. «Appartengo a una lavanderia di Seattle», disse l'uomo con un sorrisone americano. «Se non sbaglio, sono vostro compagno di cabina. Sono cantonese. Mi chiamo Lim Giacomino, nato negli Stati Uniti». da tre generazioni americano. Nonostante mio nonno si trasferisse a Canton all'età di 60 anni, non so il cinese, ma immagino che si possa combattere senza parlare. Vado in Cina a combattere i giapponesi. Anch'io, s'affrettò a dire Yuan. L'uomo gli tese la mano. Qua, gli disse. Le nebbie della nostalgia gli svanirono dal cervello quando volse di nuovo gli occhi verso la collina. Non vide più nulla. La nave aveva virato e faceva rotta verso il mare aperto. Parte terza. Aiwan s'avvide, sin dal momento in cui mise piede a terra, che quello non era affatto il paese da cui era partito. E tantomeno il paese che lui e Denlan avevano un tempo cercato di rigenerare. Il bando era affollato di gente preoccupata che faceva ressa ai moli e alle navi. Passavano rickshaw carichi fino all'inverosimile di mobili di poco prezzo e di materassi. Uomini e donne si stringevano al petto le loro creature strillanti e si rivolgevano gridando ai tiratori trafelati. Automobili cariche di bauli, di cassette laccate, di bei mobili scolpiti e di gente avvolta in fini vesti di raso. Tacita e pallida, sfrecciavano in tutte le direzioni. Laggiù, lontano, sopra i quartieri settentrionali della città, gravava una massa scura che non era una nube. Incendio? Domandò Aiwan ad Aiko, additandola. Aveva Marconi grafato dalla nave annunciando il suo arrivo e Aiko era venuto ad incontrarlo. Aiwan era stato lieto di vedere che la tedesca non era col fratello, il quale era sceso poc'anzi dalla grossa automobile americana di suo padre e lo attendeva in piedi, molto elegante, nella nuova divisa di panno azzurro. Prima di rispondere, si volse all'autista, un russo bianco, che scattò in un secco saluto. Poi, rivolta ad Aiwan, «Devi abituarti», disse. «Non passa ora senza che in qualche quartiere scoppi un incendio». Sul molo, il compagno di cabina di Aiwan guardava in disparte con occhi diffidenti. Proseguiva per Hong Kong e si era perciò avvicinato con molta confidenza ad Aiwan per dirgli addio. Aiwan aveva imparato a conoscere e a voler bene a quello strano tipo di cinese americano, ma Giacomino, Lim, vedendo Aiko in quella magnificenza, era ammutolito. Pareva a guardarlo che si fosse fatto ancora più piccolo nei suoi stracci di quanto lo fosse per natura. Aiko, ecco il signor Lim, viene dall'America per combattere, disse Aiwan. Lim tese subito la mano, ma Aiko finse di non vederla e ricambiò il gesto con un leggero inchino. Giacomino Lim si cacciò la mano in tasca con un sorrisino, mentre il naso gli si imperlava di sudore. Scrivimi, Lim, disse Aiwan, guardando suo fratello con occhi irritati. Dimmi come troverai tuo nonno e fammi sapere il numero del tuo reggimento. Certo. Disse Giacomino con un largo sorriso. Non ce la fo tanto a scrivere, ma ho idea che potrò fare quanto chiedete. Si strinsero la mano e poi Giacomino tornò a bordo e Aiwan, salendo sulla macchina, lo vide sul ponte che guardava la terra con un'espressione pensierosa e solenne. È un buon uomo, informò Aiko. Va a casa per la prima volta a far visita a suo nonno in Canton e poi si arruolerà e combatterà. Aiko avrebbe dovuto apprezzare le eroiche virtù di quel ragazzo generoso fino alla sciocchezza, invece disse con impazienza: Ah, ce ne sono molti come lui, troppi, sciocchi pieni nient'altro che di entusiasmo. Ci hanno quasi rovinati, Aiwan, quegli sciocchi di buone intenzioni. Hanno lasciato cadere bombe sui nostri reparti e ieri hanno bombardato una nave americana. Oh, un incidente, naturalmente. Persuasi che si trattasse di una nave giapponese. Come se non avessimo già abbastanza guai senza doverci digerire le proteste americane e pagare migliaia di dollari di indennità. Ti dico che non ho proprio trovato molti motivi d'orgoglio per essere cinese dal giorno in cui ho rimesso piede in patria. Il bel profilo di Aiko guardò freddamente davanti a sé e Aiwan si domandò se la moglie tedesca c'entrava in qualche cosa in quella confessata vergogna. Aiko protese in avanti il busto. Chiuse lo sportello di vetro che li separava dall'autista al volante e proseguì. La verità, Aiwan, è che i giapponesi ci hanno battuti su tutti i fronti. Nell'aria non ce la facciamo con loro. La nostra aviazione non vale nulla, è marcia fino alle ossa ed è al comando di una donna. Rise sprezzante e poi, è ridicolo. Quale altro paese mai ha una donna a capo dell'aviazione nazionale? E poco importa che da noi sia la grande signora Chang. Che cosa ne sa colei di aviazione? Meno male che vado a Canton. Vai a Canton? Domandò Yuan. Cominciava a vedere ora molte cose che ignorava. Tutti ci andiamo, meno il babbo. Frida è partita già 3 settimane or sono qui, non le piaceva stare. Le donne straniere, aggiunse compiacente, sono molto sensibili. Ad Aiwan venne voglia di ridere. Quella, una donna sensibile. Ma era contento che almeno la sua vista gli fosse risparmiata. In quanto a me, proseguì Eiko, devo assumere una carica a Canton agli ordini del generale Pai, ordine di Chiang Kai-shek. La macchina si fermò per lasciare il passaggio a una fila di rickshaw. Immagino che tutta questa gente sia in fuga, osservò Aiwan. Da alcune parole di Eiko gli era parso di capire che ci fossero dissapori tra la moglie tedesca e i familiari in casa, ma non volle chiedere nulla. Inutile rimanere per essere presi fra due bombardamenti, commentò Eiko. Per un pezzo non si dissero altro. La macchina continuò la sua corsa con brusche voltate sulle vie piene di gente. Eiko del resto non gli domandava niente ed egli dal canto suo non si sentiva di dire alcunché. Seduto nell'angolo della macchina, guardava in silenzio dal finestrino. La situazione gli appariva ora ben peggiore di quanto avesse immaginato. Ora passavano per vie fiancheggiate da case scoperchiate, semidiroccate. Aiwan dimenticò la donna tedesca. Dimmi esattamente che cosa succede, domandò. Aiko scrollò leggermente le spalline. A proposito, che uniforme era quella che portava? Rimuginò fra sé Aiwan. Non era certo la divisa di un soldato semplice. Succede esattamente quello che vedi, replicò con disprezzo Aiko. La gente corre di qua e di là e tutto va alla malora. Non c'è l'ombra di un'organizzazione, nulla è pronto. Chang se ne sta nella capitale, a Nanchino, come un ragno nel centro della sua tela. Peccato che non acchiappi nessuna mosca. E così dicendo, Aiko rise di nuovo con sarcasmo. Ma certo avrà pure qualche piano, osservò con ansia Iwan. Non mi consta che abbia piani, rispose Eiko. Partendo dalla Germania per fare ritorno in Cina, mi ero naturalmente figurato di trovare qui un esercito nazionale bene organizzato. E invece che cosa trovo? Orde di gente sbandata, ogni orda obbediente a un suo piccolo capo, senza il minimo concetto nazionale dei problemi. Disciplina zero. Una banda qualsiasi decide lì su due piedi di attaccare l'esercito giapponese per conto suo nel momento meno propizio e quando nulla alle spalle è pronto per sostenere l'attacco. E il risultato? Uno stupido sciupio di uomini e di munizioni. Ma tutti si eccitano a vicenda e si proclamano eroi. E il pallido viso di Aiko arrossì improvvisamente. Mi sembra strano, osservò Aiwan, sentirti parlare di disciplina. Beh, ho imparato che cosa vuol dire, replicò seccamente Aiko. Poi, dopo una pausa, naturalmente l'efficienza dell'esercito giapponese è da ascriversi senz'altro alla sua disciplina. Anche loro hanno imparato dai tedeschi. Poi, dopo un'altra pausa, non solo noi non vinceremo mai, ma abbiamo già perso. Aiwan non disse nulla, capiva benissimo il triste significato di quelle parole di Aiko. Era vero che la Cina non aveva mai creduto che sarebbe capitato il peggio, e se il peggio era capitato, nulla ora poteva più annullarne gli effetti. La Cina, comunque, non era stata preparata agli eventi, ma Aiwan non si rassegnava lo stesso all'idea che la sconfitta fosse completa e irrevocabile. Improvvisamente comparvero alcuni aeroplani sulle loro teste. Aiko urlò qualcosa all'autista attraverso il tubo acustico. Quello fermò la macchina sull'orlo del marciapiede e attese. Gli apparecchi cominciarono a picchiare, ruggendo, e fu a questo punto che per la prima volta Aiwan vide cadere bombe, bombe argentee che luccicavano al sole cadendo sulla città cinese. Era impossibile averne paura, eppure ad una scomparivano. Seguiva un attimo di silenzio, poi uno scoppio e laggiù si sollevava una nuvola di fumo e di polvere. Gli apparecchi ripresero quota e scomparvero verso occidente. Prosegui ora, ordinò Aiwan all'autista. Proseguirono. Aiwan non disse altro e Aiko taceva anche lui. Quanta gente era stata uccisa in quei pochi minuti. Improvvisamente Prima che Iwan se ne rendesse conto, furono alla porta che egli si ricordava così bene. Con Aiko al fianco salì i gradini dell'ingresso. Era preso da un senso strano, ma non aveva paura di quanto aveva veduto. Prima di aver paura delle bombe, forse avrebbe dovuto vedere i morti. Dappertutto regna una gran confusione, gli disse bruscamente Aiko. Suonò il campanello. La vecchia sta così male che dubito ce la faccia a compiere il viaggio, soggiunse con impazienza. La porta si aprì e immediatamente Aiwan sentì nelle nari il dolciastro, nauseante odore dell'oppio della nonna, rievocatore di tante memorie. Una servetta stava sul limitare della porta aperta della camera della vecchia e rimestava l'oppio in una ciotolina, servendosi di un cucchiaino d'argento. Vedendo Aiwan, lo guardò con tanto d'occhi. Era una ragazza dal volto grossolano, con i grossi zigomi sporgenti, e affatto diversa da Peonia, di cui aveva preso il posto. Peonia. Aiwan, dal momento in cui aveva posto piede in Cina, non ci aveva ripensato, ma ora gli pareva di doverla ritrovare in quei luoghi della sua vita passata. Mai più sentito parlare di Peonia? Domandò ad Aiko, che in quel momento stava togliendosi la giacca. No? La risposta venne con un tono di sarcasmo. Bella gratitudine la sua, eh? Trattata come una figlia, si può dire, per tanti anni in questa casa. Quello che le si dava se lo guadagnava, replicò brusco Aiwan, ricordando. Poi, voltandosi verso la camera della nonna, entrò per primo, disse. Non ti riconoscerà, rispose Aiko, ma Aiwan entrò ugualmente. No, la nonna aveva da lunga pezza superato lo stadio della lucida coscienza, ridotta a uno straccio umano, giaceva scarmigliata sul letto con la pelle rugosa che pareva cuoio scuro sullo scheletro di un bambino. Aiwan s'avvide subito che non ci vedeva più. La cataratta le aveva spenti gli occhi, le disse ad alta voce: Nonna, sono io, Aiwan, sono di nuovo qui, a casa. Ma lei non poteva udirlo. Egli allungò la mano. Toccò la mano di lei e la sentì fredda e secca come la zampa di un uccello. Avvertendo il suo tocco, ella aprì le labbra azzurre ed emise un grido stridulo e lamentoso. Mezzo impaurito, Aiwan le lasciò subito cadere la mano. Possibile che esseri umani si riducessero in quello stato di totale inutilità? In quel punto udì un passo dietro di lui. Era suo padre. Si era fatto più grosso. Aiwan notò subito che il suo sguardo non era più tranquillo e che i capelli erano quasi bianchi, ma i lineamenti erano sempre quelli. Babbo, disse. Figlio, rispose suo padre e lo afferrò per i gomiti. La cosa più bella che potesse accadere. Perché però non hai risposto alle mie lettere in questi ultimi mesi? Non ebbi mai alcuna vostra lettera, rispose Aiwan, e in quanto a me vi ho scritto. Suo padre lo guardò e scosse il capo. Non capisco più quel muraki, disse. Poi, come congedandolo col pensiero, ma tu sei qui, proseguì. Non avremo più bisogno di scriverci. Era difficile trovare alcunché da dire a suo padre con tutto quello che Aiwan aveva nel cuore. Il nonno ti aspetta in camera sua, gli disse il signor Wu. La nonna non mi riconosce, osservò Aiwan, domandandosi in cuor suo se anche suo nonno alle volte. Lo troverai poco cambiato, lo informò suo padre. Certo è invecchiato, ma se ne sta di là, seduto, vestito della sua migliore divisa, con tutte le sue medaglie, pronto a partire nel termine di 6 ore. E bisogna sentirlo quanti consigli impartisce sul conto dei giapponesi. S'arrestò, rise e poi. L'ultima volta che andai a conferire a Nanchino. Mi diede per Chiang Kai-shek un lungo piano di guerra per dimostrare come in 6 mesi potessimo liberarci non solo dei giapponesi, ma di tutti gli stranieri. Di nuovo rise, poi sospirando, si voltò. La vecchia ricominciò il suo mugghio lamentoso e sommesso, e il signor Wu ordinò imperiosamente alla servente: Dalle la droga e chetala. Sì, signore, subito, balbettò in fretta la ragazza. Niente da fare coi vecchi quando sono così, disse il padre di Aiwan, salendo le scale che conducevano al piano di sopra. Pesi, pesi inerti, borbottava. Aiwan non rispose. Trovava il padre cambiato, più dolce e tuttavia più forte. Come sta la mamma? Domandò. Sta alzandosi in questo momento, rispose suo padre. Ha tardato a svegliarsi. Il bombardamento di ieri sera l'ha tenuta sveglia e quando comincia perde la testa. Si fermò con la mano alla porta del nonno. A proposito, disse rivolta a Daiwan, quando tua madre ti dirà che devi andare con lei a Canton, non dire che ci andrai. Tu non ci devi andare, devi restare qui tu. Chiang Kai-shek ha dei progetti per te. Daiwan ascoltò quelle parole guardando in viso suo padre. Chiang Kai-shek! L'uomo dal quale aveva dovuto fuggire in passato, colui che forse aveva ucciso il Lan. Ma tutto era diverso ora. E perché dunque non anche questo? Benissimo, rispose con fermezza. E insieme entrarono dal nonno.